Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno dal gastronauta. Bene, oggi parleremo di un argomento particolare, magari che qualcuno può pensare che sia riferito solamente al nord-est, ma no, è un fenomeno che ormai si sta veramente estendendo. È un aperitivo, ma ormai è diventato un fenomeno di costume e andremo a vedere anche le iniziative che sono nate per lo spritz, attorno allo spritz. Avete capito, parleremo di spritz. Spritz, ora spiegheremo anche cos'è, perché credo che molti radioascoltatori magari non sappiano cos'è lo spritz. E invito allora soprattutto i nostri radioascoltatori, ma anche i bar magari che sono in ascolto, a segnalarci qual è il loro spritz preferito, cioè quali sono le componenti dello spritz, perché sono tante, come vedremo, tante sono le varietà di questo aperitivo che ha origini lontane, forse magari si perde anche nel tempo e non si sa bene da dove deriva, ma poi vedremo anche questa parola da dove è nata. Quindi io ricordo il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666. Magari diteci anche quali sono i vostri locali preferiti, dove avete lo spritz, dove avete bevuto il miglior spritz. Allora, perché fenomeno di costume? Perché ormai non è solamente un vero e proprio aperitivo, ma ha generato siti, ha generato uno spritz festa, addirittura uno spritz letterario. Vedremo ad uno tutti questi fenomeni collaterali che sono nati, ma prima di tutto partiamo dal fenomeno spritz. E allora, ho con noi Vito Casoni. Vito Casoni è uno di quei personaggi che credo segua lo spritz non so da quanti anni, ha lavorato per l'Aperol, ora è un consulente, ma ha seguito passo per passo lo sviluppo di questo aperitivo. Buongiorno Vito Casoni. Buongiorno Paolini, buongiorno a lei e agli ascoltatori, complimenti per la sua trasmissione. Bene, Casoni, ma cos'è successo questo spritz? Perché diciamo che per anni ha un po' dormito e magari è stato riferito solamente a Treviso, a Padova, a Venezia, a Verona e poi all'improvviso ora addirittura poi lo faremo anche un collegamento con Bruxelles, dove c'è un locale che è diventato famoso per lo spritz, un altro a Barcellona, ma non siamo riusciti a contattarlo Barcellona perché questo spritz si chiama spritzeria, non siamo riusciti a metterci in contatto con questo vicentino che ha aperto questo bar che sembra di grandissimo successo. Quindi cosa è successo attorno allo spritz? Ma guardi, la storia è molto lunga e non complessa, ma è molto lunga. Prima di tutto i miei primi spritz li ho bevuti nel 64, quindi la storia personalmente posso testimoniarla, è veramente lunga. Avevo già l'età legale, perché adesso il problema dell'età legale è un problema che conta molto. E lo spritz era una bevanda, lasciando stare le origini austriache, i soldati austriaci spritzen il vino spruzzato, cioè di cui forse ci dirà meglio lei dopo, ma molto semplicemente nel dopoguerra lo spritz era un piccolo bicchiere di vino allungato con il seltz nelle osterie che piano piano ha iniziato a essere macchiato per rendere l'offerta un po' più varia rispetto a un semplice acquavino, macchiato con quello che si chiamava l'amaro. L'amaro era un po' di tutto, poteva essere Cinara, all'inizio lo era, Campari, Aperol, Selec, ma anche altri prodotti. Questo è il classico spritz Treviso, Venezia, Padova, come ha detto bene lei, uno spritz un po' da osteria, piccolino, però dagli anni 60 fino agli anni 80 e primi anni 90 lo spritz era ed è rimasto quello. Senta, la interrompo perché abbiamo già Giuliano da Padova, un radioascoltatore, ecco, sentiamo, sì. Padovano sicuramente. Buongiorno Giuliano. Buongiorno, buongiorno Davide. Io avrei così... Prima le faccio una domanda io Giuliano, ma lei è un bevitore di spritz? Beh, molto volentieri, alla sera magari, non tutte le sere, ma qualche volta molto volentieri. Io di solito faccio macchiato Aperol. Bene, mi dica quello che voleva raccontarci. Allora, io so qualcosa sull'origine del nome spritz, che da quello che ho potuto sapere documentandomi, che il nome è nato a Venezia, quando Venezia era invasa dagli austriaci circa due secoli fa. Siccome c'erano molte mescite di vino in giro per le calli della città, e la gente si fermava a bere per dissetarsi. Per gli austriaci era troppo alcolico e chiedevano di tagliarlo con l'acqua. Spritz significa tagliare in tedesco e da qui il nome, per quello che ne so io. Bene Giuliano, altre fonti dicono che spritz è spruzzare in tedesco, addirittura che sia il nome di origine di un vino austriaco. Comunque grazie Giuliano. Ritorniamo a Casoni, che l'avevo interrotto. Casoni? No, prego, direi che è un'osservazione molto corretta, la storia come si trova da Wikipedia in su parla proprio dei soldati austriaci, eccetera. Però forse interessano di più tempi un po' più recenti. Certo. Quindi dicevo, lo spritz nel suo piccolo bicchiere da osteria era un mito già dagli anni 60, era rimasto fino a qualche anno fa, solo nel triangolo Treviso, Venezia e Padova. Però in questi anni si sono già formati dei fenomeni interessanti, per esempio un grande campanilismo intorno a questo spritz, e le differenze di bere e di proporlo tra le tre città, lo spritz Campari, lo spritz Aperol, come Bartali e Coppi, insomma, all'epoca qualcosa del genere. E un altro fenomeno molto interessante in quei primi anni d'austeria è quello dei cicchetti, che per noi, io sono veneziano, per noi veneziani il cicchetto va assieme allo spritz. E lei, che è un gastronauta, sa bene cosa sono i cicchetti a Venezia: sono un'offerta di food direi violenta e molto pittoresca, che parte dalle polpette alle mezze uova fino ad arrivare alle sardelle in saoro, quindi cose di una certa portata. E lo spritz era perfetto per accompagnare questi momenti. Bene, sono arrivati già decine di sms. Allora, alcuni ci dicono che spritz significa spruzzato, come abbiamo detto. Un altro dice: io lo preferisco con l'apro. Un altro ancora dice che lui lo preferisce con il vino. Insomma, e allora io invito, raccontateci come lo preferite: Cynar, Aperol, Campari, vino, Select. Insomma, qual è il vostro spritz e qual è il vostro bar preferito? Ecco, lascio questo interrogativo. Casoni, io le faccio un'ultima domanda veloce, perché ancora sono solamente un minuto, ma lei pensa che si possa estendere ormai in tutta Italia questa spritz mania? Quella di cui dicevo prima è la prima parte della storia. La seconda parte, molto velocemente, è l'idea del prosecco nella ricetta. È nata nelle spiagge venete, da Lignano fino a Sottomarina, passando per Jesolo, Carlo e Venezia. Il bicchiere è diventato più grande, cubetti di ghiaccio, una bella fettina d'arancio, al posto del vino bianco fermo, il nostro prosecco veneto, che si sposa benissimo con, in particolare con Apero. Direi che Apero poi da quel momento è diventato il vincitore nello spritz, direi 7-3 contro tutti gli altri. Bene, noi facciamo un referendum su questo tra i nostri radioascoltatori, come lo preferiscono. Continuano ad arrivare delle precisazioni, le leggeremo dopo. Io ringrazio Casoni, grazie del suo intervento. Il gastronauta. Bene, continuiamo questo viaggio nello spritz. Come dicevo prima, ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Come dicevo, stanno arrivando moltissimi sms, ne voglio leggere uno. Uno contesta che sia il nome di un vino austriaco, vuol dire spruzzato in tedesco lo spritz, quindi benissimo. Dovremmo vietare di fare lo spritz senza seltz, scrive un altro radioascoltatore. Certi baristi lo allungano con acqua della bottiglia. E poi ancora, da noi si chiama papavero, vino bianco e Campari o simili, questo è in provincia di Mantova, e qui e via di seguito. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Graziano da Monza, buongiorno. Buongiorno, sono Graziano da Monza. Niente, una testimonianza diretta, perché abito a Monza, ma sono di origine di Verona in provincia, e i miei avevano un bar centrale. Mio papà all'epoca era l'unico che aveva lo seltz, diciamo, a spina. E mi ricordo che ero piccolino, avevo avuto 6 o 7 anni, e avevamo dei giochi di bocce, ne ho venduto fiumi di spritz, in quella zona lì lo volevano sempre con la scorzetta di limone e con l'aggiunta di un cicchettino o di Cynar o di americano rosso. Bene, anche questa è una diversificazione, ma abbiamo sentito, lei parlava di seltz. Infatti questo radioascoltatore che ci dice: dovrebbero vietare di fare lo spritz senza seltz. Bene, abbiamo sentito che in provincia di Mantova, mi sembra di capire, si chiama papavero, vino bianco e Campari, ma i nomi sono tanti, e ora scopriamo anche un nome davvero divertente che viene dato a questa bevanda, che da altre parti si chiama spritz, a Brescia. A Brescia abbiamo con noi Marco Bianchini, del titolare Bar Aquarium, in Piazza della Loggia a Brescia, quindi in pieno centro. Buongiorno Bianchini. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta, racconti ai milanisti come si chiama da voi lo spritz. Da noi si chiama Pirlo. Allora... proprio come il calciatore che è bresciano. Ma è precedente lo spritz a Pirlo, immagino, sì. Sì. Ecco, perché lo chiamate Pirlo? Ma francamente è un termine che usiamo da diversi anni. Io ricordo mio nonno che dal 52 ha avuto una trattoria e lo usava già questa terminologia per classificare, diciamo, lo spritz. Ecco, allora lanciamo ai nostri radioascoltatori, visto che rispondono così con tanti sms, chissà perché si chiama Pirlo a Brescia, magari telefoni oppure ci mandi un sms, perché credo che sia un mistero da svelare. Senta Bianchini, quindi lo spritz è arrivato, anzi il Pirlo è arrivato anche a Brescia e si vende in grande quantità, mi dicono. In grandissime quantità. Noi poi siamo dislocati in centro storico a Brescia e ne vendiamo tantissimo, con Campari, con Aperol, Cinar un po' meno, però Campari e Aperol vanno tantissimo. Un vino fermo, più che vino mosso. Noi. E voi lo usate un vino bianco fermo oppure il prosecco che voi usate? Vino bianco fermo. Preferiamo il vino bianco fermo, aggiungendo sempre del seltz. Quindi il bianco di Franciacorta, immagino. Bianco di Franciacorta. Senta Bianchini, ma quindi è una tradizione lunga anche a Brescia, quindi dal nord-est è sceso giù. È lunghissima. E anche voi alle 19, come avviene in molte parti così del nord-est, perché poi spiegheremo che, diciamo, che questo fenomeno è stato completamente ripreso da un gruppo di studenti, e un gruppo di studenti i quali hanno addirittura fondato un sito già da molti anni, www.sprizze.it, addirittura dove segnalano i locali preferiti, segnalano le feste, organizzano le feste, quindi un mondo tutto attorno nato agli universitari di Padova. Ecco, credo che il fulcro in questi anni siano stati questo gruppo di universitari di Padova con, diciamo, come guida un ingegnere che ha fondato tutto, che oggi non è potuto intervenire perché è impegnato dal punto di vista del lavoro, e ci dispiace molto perché questo Brenta è veramente stato un po' la testa, lo sviluppo di tutto questo fenomeno. Bene, rimanga con noi Bianchini, sentiamo ora, c'è un altro grosso problema attorno allo spritz che io vorrei sentire anche qui i nostri radioascoltatori, che è un'azienda, e ora abbiamo con noi la titolare dell'azienda Moletto, Chiara Stival, produce uno spritz in fusti, e questo ha creato un po' di problemi perché questo gruppo di studenti, di cui anche hanno emesso un manifesto attraverso un altro sito che si chiama spritzdoc.it, addirittura un manifesto diciamo di come si serve, come si beve e tutta una serie così di regole, e contestano un po' questa nuova produzione in fusti. Allora chiediamo a Chiara Stival se questa nuova produzione in fusti funziona. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il prodotto funziona. Ecco, il prodotto è un eccellente prodotto che riusciamo a distribuire in tutta Italia grazie alla collaborazione commerciale con Montelvini, che ha un know-how commerciale nel settore, appunto, della distribuzione in fusto. E questa è stata proprio la strategia che abbiamo adottato, azienda Moletto, appunto produttrice e detentrice del marchio Spirituan, con Montelvini, proprio per coprire tutto il territorio nazionale. Ecco, ma la composizione, cos'è? Un segreto oppure? Sicuramente è una ricetta nostra originale di Moletto, che è un'azienda produttrice di vino che ha pensato tre anni fa a questo prodotto. Perché? Proprio perché, senza nulla togliere ai baristi, ai barman, che sanno mixare in maniera eccezionale e produrre degli eccellenti spritz, l'esigenza da parte nostra è nata dal fatto che nel degustare, nel veder preparare a volte più spritz nello stesso momento, la degustazione per i singoli spritz non era la medesima. Senta, ma non si perde un po' il gusto del momento, diciamo, della preparazione, del contatto con il barista? Perché questo è un po' che viene così anche segnalato, appunto, da tutti questi siti che sono nati attorno allo spritz. Allora, guardi, questo è proprio, sicuramente c'è un versante di baristi, soprattutto, che la pensa in questo modo. Le posso garantire che per ottimizzazione di tempi, diciamo che il prodotto è centrato per il canale Horeca. Quindi abbiamo fatto un prodotto, lo ribadisco, di eccellente qualità, perché la ricetta di base logicamente prevede l'uso del vino prodotto da noi, vino prosecco, sels e poi ingredienti naturali, appunto, che fanno parte di questa ricetta che è nostra esclusiva, logicamente è segreta. E proprio per agevolare i baristi nel loro compito. Bene, grazie, grazie. Sentiremo poi qualche barista cosa ne pensa. Bianchini, lei conosce questo prodotto? No, francamente no. E noi, io non lo vorrei neanche conoscere, perché io vado sul tradizionale, vino, sels, apero lo Campari alla mano, così, fatto dal barista velocemente. Ecco, sentiamo Ademaro da Sondrio, un radioascoltatore. Buongiorno, Ademaro. Buongiorno, signor. Tanti che spengo la radio. Sì, ecco. Buongiorno. Allora, io ho abitato alcuni anni a Brescia e per parecchio tempo nei bar, specialmente di periferia, i famosi vicenzini mettevano la sfilata dei bicchieri sul bancone con una parte di acqua, tre di bianco, una spruzzata di bitter della Mutua e le tartine con le acciughe salate e il burro. Bene, era buonissimo. A questo punto ha dimenticato tutto oppure no? Dove abita ora non c'è più questa tradizione? No, qui non esiste a Sondrio. Là penso che esista ancora. Almeno l'ultima volta che sono stato a trovare i miei amici ancora. Bene, grazie. Però quei baretti lì non ci sono quasi più. Bene, i non esistono più. Facciamo un appello a Sondrio. Continui, sì. Di che qualcuno che cominci a servire lo spritz. Sentiamo Massimo da Verona. Buongiorno Massimo. Buongiorno, niente, io ho chiamato perché così io mi vanto un pochino che del fatto che durante una vacanza io mi trovavo a Caraibi e presso il resort dove stavo c'era il barman argentino che certamente non conosceva lo spritz, ho insegnato più o meno la ricetta con il prosecco, lo sels, il bitter Campari e ho potuto constatare che dopo una settimana il cocktail aveva avuto un enorme successo, tant'è anche che turisti americani, stranieri lo richiedevano e quindi mi vanto di questa piccola operazione, diciamo. Bene, grazie Massimo. Prego. Sentiamo Renzo da Venezia. Buongiorno Renzo. Renzo? Pronto Renzo? Sì, buongiorno Davide Apolini, buongiorno. Parla Renzo da Venezia. Sì. Ho una casa anche ad Asolo e di conseguenza sia da una parte che dall'altra ritengo che ho 65 anni e niente, lo spritz originale a Venezia è formato da un vino raffermo, possibilmente Tokaj bianco naturalmente, con una leggera quantità d'acqua naturale. Poi appena appena un pezzettino di limone, cioè una scorza di limone. Questo è il classico spritz che è nato, giustamente come diceva l'altro ascoltatore prima, a Venezia. Che non ha niente a che vedere con l'ombretta, eh? No, ma è come... L'ombretta è un'altra cosa. Mi scusi una cosa, Renzo. Questa sull'origine c'è molta discordanza, però... Perché... No, ma non c'è discordanza. Guardi, questo è... Io ho letto dei libri e sì, sono sicuro al 101%. Poi... Ma ce li dica questi libri, perché noi li abbiamo cercati, non abbiamo trovato niente. Le elaborazioni che ci sono state, tipo Aperol, Campari, indubbiamente buone, niente da dire, però lo spritz originale è quello che le ho detto. Beh, lei è così... Io ho un Artusi molto vecchio, sì, e c'era scritto questo. Ma a parte guardi, questo, l'Artusi... io ho 65 anni, ho cominciato a bere che avevo lo spritz a 16 anni, perché da ragazzino bere un bicchiere di vino senza acqua è un po'... Renzo, guardi, io dubito, conoscendo molto bene l'Artusi, tra l'altro molto vecchio, cioè l'Artusi ce n'è uno solo scritto nel 1891, poi ci sono varie edizioni, semplicemente qualcuna con qualche ricetta in più, però dubito che nell'Artusi ci sia questa bevanda, perché l'Artusi non parla assolutamente di vino in nessuna pagina del suo libro e penso tantomeno dello spritz. Non metto in dubbio che sia nato a Venezia, però le voglio chiedere un'ultima cosa: qual è il bar dove lei va a bere a Venezia lo spritz? Nell'Asolano. Nell'Asolano normalmente, perché ripeto, avendo casa di qua e di là, mi fermo più bene, volentieri. È una taverna a Crespano, nel Trevigiano, e si chiama Taverna Gallo. Bene, e lì, grazie. E lì non è male. Grazie Renzo. Il gastronauta. E P Pirlo. Abbiamo chiesto cosa significasse Pirlo in bresciano, perché così viene chiamato lo Spritz, con questo nome molto particolare. Ebbene, i nostri radioascoltatori hanno già risposto. Si chiama Pirlo per l'effetto rotatorio che dà la spruzzata di Sels. Pirlare vuol dire girare. Un altro: in bresciano Pirlo vuol dire anche capitombolo. Forse a Bernetroppi succede. A Brescia servono anche il pirlone, 2 o 3 volte la dose del pirlo. Bene, divertentissima questa storia bresciana, ma si chiama Spritz in particolar modo a Padova e poi vedremo anche a Bruxelles. Buongiorno a Nicola Taricco. Buongiorno Taricco, che è titolare del Piola.libri, Enoteca Bar Libreria di Bruxelles. Buongiorno. Buongiorno, eccomi, buongiorno. Allora, lei ha portato lo Spritz a Bruxelles? Sì, diciamo che non c'era, era un vuoto da colmare, noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo addomesticato un po' lo Spritz, l'abbiamo fatto in versione un po' più internazionale, quindi diciamo che da noi non prevede il Sels, ma prevede il Prosecco, e il Campari e l'Aperol, per insomma diciamo accontentare un po' i gusti anche dei nordici, però diciamo che... Funziona? Funziona molto bene, assolutamente. Senta Taricco, ma lei è veneto? No, io sono piemontese. Infatti la... Come mai l'idea? Come mai l'idea dello Spritz? Beh, l'idea dello Spritz, sono tutte le idee nascono da una donna, e quindi chiaramente la mia fidanzata, che è veneta, mi ha insegnato che esisteva una cosa che era lo Spritz, facendomelo conoscere all'aperitivo a mezzogiorno a Venezia sotto il sole che picchia. Al terzo Spritz ho capito che aveva un futuro anche nel nord, e quindi l'ho importato. Bene, bene, allora io le auguro grandi successi a Bruxelles, specialmente quando fa freddo e piove. Grazie, grazie Taricco per questa sua testimonianza. Sentiamo un radioascoltatore, Bruno da Treviso. Buongiorno Bruno. Sì, buongiorno a lei. Niente, io volevo intervenire riguardo allo Spritz, non per aver letto libri o qualcosa del genere, ma soltanto per avere avuto testimonianze praticamente di persone quando ero molto piccolo, insomma, ecco. E questi mi dicevano appunto che lo Spritz prende il nome dalla spruzzata del Sels, appunto, nel bicchiere di vino. Poi c'è stato messo il limone e poi praticamente è scomparso lo Spritz, la bottiglia del Sels, è venuto a sostituirla la bottiglia di acqua minerale gasata, però non acqua naturale. Senta Bruno, ma lei è di Treviso, dove va a bere lo Spritz? Ma un po' dappertutto, le osterie. Ah, bene, bene, grazie. Ora andiamo nel cuore dello Spritz, che andiamo a Padova. Andiamo a Padova da Marco D'Agostini, che è titolare dell'osteria Barabba. Perché dico il cuore? Perché Padova è quello che più di ogni altra è la città che si è organizzata. Questo gruppo di studenti che è www.spritz.it, questo movimento che è diventato un movimento abbastanza importante, che tutte le sere alle 7 riempie un paio di piazze a Padova, a Treviso, a Verona. E allora io voglio chiedere ad Agostini, ma ha un grande successo lo Spritz o lo ha sempre avuto? Ma buongiorno a lei intanto Paolini, diciamo che lo Spritz da quanto io ho memoria ha sempre avuto un grosso successo. Ovvio che si è evoluto, essendo comunque un fenomeno di aggregazione, i titolari, insomma i gestori cercano di unire al fenomeno Spritz, inteso come bevanda, anche una serie di cose che lo completano, da quello che può essere lo stuzzichino, come parlava Casoni. Nel nostro caso in particolare facciamo delle vere e proprie cene abbinate allo Spritz 2 volte alla settimana, anche perché lavorando con l'osteria produciamo noi direttamente tutto quello che poi alla sera abbiniamo all'aperitivo. E poi la musica, l'arte, diciamo che essendo un fenomeno di aggregazione può essere unito a tutto quello che ci gira attorno. Ecco, rimanga con noi D'Agostini, ora voglio sentire dei radioascoltatori. Maurizio da Gorizia, buongiorno Maurizio. Ciao Davide, senti, volevo dirti solo questo, che condivido il fatto che questa sia una moda, come diceva il nostro amico di Padova adesso, e che sia importante per l'aggregazione. Sottolineo solo il rischio che questa moda possa compromettere l'educazione al bere bene, perché spesso purtroppo, non è certo il caso dei locali che abbiamo citato, però ci sono dei bar nei quali lo spritz serve solo per dare del vino cattivo e quindi diciamo è anche un modo per mascherare un po' dei vini non certamente buoni. Noi che abitiamo a Gorizia, noi del Friuli, difendiamo il Tai, il Taiut, difendiamo diciamo anche l'aperitivo proprio di vino bianco classico che sicuramente mette in guardia il consumatore e lo rende più diciamo consapevole del fatto che il vino deve essere buono. E poi c'è un altro aspetto, stiamo attenti che lo spritz può diventare anche un modo di bere troppo, di bere male, per cui anche nei confronti dei giovani forse ci vuole un po' più di educazione, senza fare i moralisti, però io ne vedo tanti di questi ragazzi che bevono questi spritz senza rendersi conto di quanto alcol poi diciamo immettono nel loro corpo. Grazie Maurizio, perché il tuo intervento ad hoc è sicuramente giusto. Io devo dire che forse uno dei modi per sapere che cosa ci si mette è proprio quello di al banco di vedere il vino che viene versato. D'Agostini, lei che vino usa? Usiamo, abbiamo fatto diverse prove con i vini, col prosecco a me personalmente non entusiasmava, però noi utilizziamo una Garganega in purezza, quindi un Gambellara DOC vinificato frizzante, che abbiamo scoperto che abbinato sia all'apro, perché avendo un po' di residuo zuccherino ne esalta diciamo l'aspetto dolciastro ed entra in contrasto benissimo con il Campari, perché essendo il Campari comunque il bitter più amaro, comunque riesce a completare meglio il gusto dell'aperitivo. Bene, grazie, continui a rimanere con noi, sentiamo Lavinia da Milano, buongiorno Lavinia. Ciao Davide, io sono vicentina e a Vicenza l'ho conosciuto come vino e acqua, però a Padova ho scoperto appunto il prosecco e Aperol, quindi questo secondo me è il vero spritz, anche se nel vicentino si usa acqua e vino. E poi un'altra cosa che volevo dire è che noi lo accompagniamo molto con i tramezzini che non sono stati citati, e poi volevo citare l'osteria della Gigia di Treviso che fa spritz buonissimi e soprattutto cicchetti buonissimi. L'osteria? Della Gigia a Treviso, in centro a Treviso. Ma visto che tu sei molto, mi sembra di capire, molto così ferrata sull'argomento, qual è la tua composizione preferita dello spritz? Prosecco di Valdobbiadene e Aperol. Benissimo, grazie. Sentiamo un'altra donna, Loredana da Milano. Buongiorno Loredana. Da Cesano Maderno. Cesano Maderno, bene. Sì. Io so che lo spritz nasce diciamo dal boom economico, diciamo, gli anni 60, la ripresa delle aziende, cioè come prodotto povero si usava la gazzosa. Beh sì, questo gazzoso e vino. È nato proprio sì. Così, diciamo l'inizio proprio degli anni 60, il boom così. Senta, come ma lei Loredana povero, beve lo spritz? Come? Lei beve spritz? Sì, i miei genitori sono della provincia di Treviso, praticamente nasce quindi, proprio lì. Quindi è marchio proprio nord-est, ovunque c'è le origini. Ma lei lo beve a Milano anche lo spritz? Ma io lo faccio a casa. Ah, lei lo fa a casa. Sì, io faccio metà gasosa e metà vino bianco. Non addirittura il prosecco, perché appunto essendo stato, è nato come un prodotto povero, si usava il vino bianco normale, poi dopo è evoluto col prosecco, è diventato più sofisticata la cosa. Bene, grazie Loredana. Io voglio tornare ad Agostini. D'Agostini, il discorso del metà gazzosa e metà vino. Beh, questo non è spritz, no? È diciamo un altro tipo di, anche gazzosa e birra si beve di solito. Sì, esatto. Comunque diciamo i prodotti che adesso caratterizzano lo spritz, che abbiamo detto appunto il Campari, l'Aperol. Comunque posso assicurare che durante l'aperitivo vengono mescolati dai succhi di frutta, addirittura adesso va molto con la Tassoni, cioè viene abbinato alla Tassoni quindi l'Aperol. C'è una degenerazione, insomma, diciamo. Sì, diciamo si evolve, la gente ti chiede chi vuole il goccio di china, chi vuole aggiungere un po' di rabarbaro, cioè di cinard, insomma, comunque... ognuno cerca di personalizzare il proprio spritz, più ghiaccio, meno ghiaccio, non mettermi l'arancia, mettimi il limone o mettimi il lime addirittura, perché adesso il lime viene introdotto ormai ovunque. Quindi ognuno ha la sua ricetta. Io la ringrazio D'Agostini, grazie della sua testimonianza. Bene, devo dire innanzitutto numero verde 800 24 0024, messaggi 349 238 6666. Ne sono arrivati molti. Sono arrivati molto che si dividono su questo Spritz One, questo diciamo infusto. Ci sono molti che dicono l'ho provato, non mi piace. Altri mi dicono mi piace. Quindi c'è una grande divisione su questo punto. Anche anche sulla ricetta c'è molta divisione, quasi a voler così confermare che lo spritz è diventato un, diciamo, un momento in cui attorno possono girare diversi aperitivi, diverse composizioni. Ma poi vedo anche che c'è qualcuno divertente che dice: ho fatto 15 anni di Pirlo, Alex Barnoce di Pilzone, di Seo. Quindi c'è qualcuno che così per anni lo ha continuato a bere. Appunto, spritzone, spritz one continuano a arrivare. E poi ancora ci chiedono in che proporzione vino e Aperol. Bene, lo chiederemo, perché nel prossimo appuntamento avremo un altro punto cardine a Treviso e chiederemo la ricetta diciamo trevigiana. A Sondrio mi viene segnalato che si chiama bianco sporco. E poi ancora tutti però vedo che la preferenza è con prosecco e Aperol e spicchio d'arancio. Ormai questo mi sembra che sia un po' così la ricetta che emerge in maggior votazione dai nostri radioascoltatori. Ma comunque continuate a mandarci la vostra ricetta, continuate a segnalarci come si chiama, perché ad esempio ho visto che in altre parti d'Italia, mi sembra che a Parma si chiami bersagliere, da altre parti si chiama papavero. Insomma, ci sono nomi strani, però sicuramente io credo che sia il momento dell'aperitivo, quello che si beve, e sicuramente, come dicevo, è diventato ormai un fenomeno di grande aggregazione, specialmente tra gli studenti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di spritz. Ora andremo in un'altra delle capitali di questo aperitivo. Devo dire che c'è un radioascoltatore che mi ha mandato un sms e si lamenta, dice: anche Trieste è una delle capitali. Benissimo, anche Trieste sicuramente, ma prima l'ho citata tra le città del Veneto, anche Verona è un altro punto molto importante. In Piazza delle Erbe a Verona, magari durante il Vinitaly, è una cosa incredibile vedere questo bicchiere color arancio così che si perde nella notte tra migliaia di persone. Bene, dicevo, andiamo in un'altra capitale e andiamo ovviamente a Treviso. Andiamo da Mamma Mia. Mamma Mia è un locale di Treviso, è diciamo uno dei locali cult di Treviso dello spritz. Buongiorno a Sebastiano Campanelli. Buongiorno Paolini. Allora, Campanelli, bene, Treviso da sempre si beve lo spritz. Sì, io da che io ricordo, vabbè, pur essendo giovane, da quando andavo in giro con mio nonno per osterie da piccolino, è sempre stato, diciamo, la bevanda che andava per la maggiore, al di là del prosecco o del vino. Ecco, i trevigiani come lo preferiscono lo spritz? Ma i trevigiani, io vedo nel mio locale, prevalentemente va via con l'Apero, poi ci sono tutte le varie varianti, con, come dicevano prima, con il Campari, col Cinar, addirittura come lo si fa a Venezia col Select, che è un altro amaro della stessa tipologia. Da noi lo spritz praticamente va col prosecco, noi utilizziamo il prosecco frizzante, un goccio di Campari e il Sels, appunto. Tanti mettono l'acqua, noi preferiamo usare il Sels. Vicino con dei cicchetti, ovviamente. Prego? Con dei cicchetti? Con dei cicchetti abbinati, che possono essere dal tramezzino alle pure semplici arachidi o con le patatine. È un modo per accompagnare comunque l'aperitivo in compagnia. Ecco, a Treviso funziona molto bene il tramezzino, eh? Il tramezzino che va forte, vero? Il tramezzino va forte, sì, va molto forte. A parte i classici gusti, insomma, ci sono appunto tante osterie che sono proprio specializzate sui tramezzini, e va forte di brutto, sì. Bene, rimanga con noi, sentiamo Paolo da Carrara. Buongiorno Paolo. Buongiorno, signor Davide, buongiorno. Mi dica. No, io la chiamavo perché praticamente anche da noi usa, ora io non siamo a Treviso da quelle parti, però da noi lo chiamiamo il macchiato. Ah, il macchiato. Vino e acqua, insomma. Lei va in un bar, dice: mi dia un macchiato, allora gli danno questo prosecco. Io tra l'altro faccio anche rappresentante. C'ho una ditta che la gioiosa, quella di... Non facciamo, lasciamo perdere. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque anche noi l'anno scorso, comprando il prosecco, si dava dell'Aperol in omaggio, ecco, tanto per sviluppare. Grazie Paolo. Sentiamo Stefano dalla provincia di Milano. Buongiorno Paolini, buongiorno a tutti. Io sono originario di Caserta e vivo ormai da 10 anni a Milano, e non avendo nessuna radice veneta, ma nonostante questo mi sono innamorato dello spritz sulle spiagge isolane, quindi tra Treviso, Venezia, Millesimato, Ghiaccio e un goccio di Aperol è una cosa straordinaria, e per cui volevo spezzare l'arancia anche che è assolutamente internazionale lo spritz, ed è, ho un debito, credo che tutti abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti dei veneti. Bene, la ringrazio Stefano dell'altra testimonianza. Devo dire che al sud sembra che Alghero, che è, diciamo, dove avviene una movida molto importante quasi ogni sera, sia anche lì arrivato lo spritz, che comincia a avere qualche successo. Bene, abbiamo detto che lo spritz appunto è un fenomeno ormai di costume, e abbiamo con noi Francesco Donati, direttore addirittura dello Spritz Fest. Buongiorno Donati, lei proprio in 30 secondi ci può spiegare cos'è questo Spritz Fest? Spritz Fest è un evento che è nato quasi per caso e è diventato un fenomeno di massa molto diffuso, grazie anche alla diffusione data da Facebook. Ha raccolto 90.000 persone che hanno sostenuto questa idea e più di 10.000 persone che hanno espresso l'intenzione proprio di partecipare a questo evento. Sarà un evento particolare perché è dedicato allo spritz come momento conviviale, non semplicemente come bevanda. Delle cose giuste che sono state dette dai vari ascoltatori è proprio il fatto che lo spritz è un momento in cui ci si ritrova, solitamente dopo lo studio, dopo il lavoro, e si beve qualche cosa in compagnia, quindi non è una moda ma è proprio un fenomeno sociale. E tutte queste persone, questi giovani che amano il gusto di trovarsi insieme e non dell'esagerare, amano lo spritz e quindi hanno aderito allo Spritz Fest come simbolo di momento di convivialità. Il fatto che poi sia nato come gruppo da internet e diventi un qualcosa che passa dal virtuale al reale è un buon segno, diciamo, perché fa capire anche a chi critica, quei pochi che criticano il popolo dello spritz, fa capire che in realtà i giovani che amano lo spritz cercano soltanto di stare insieme e non cercano lo sballo o qualcosa tipo esagerazione. Bene, quando avverrà questo evento? È pianificato per la primavera. Stiamo discutendo con un paio di comuni che sono disposti ad ospitarci o eventualmente anche altri comuni che si vogliono fare avanti, perché la cosa è diventata molto grossa e quindi abbiamo bisogno di spazi adeguati. Grazie a Donati. Allora sentiamo François da Milano. Buongiorno. Buongiorno, io sono vissuta alcuni anni in Germania. Sì. Adesso vivo da 40 anni in Italia e sono francese. Ho bevuto sempre in Germania questo Schorle, lo chiamavano Schorle, ed era un metà vino e metà acqua frizzante, e certe volte si aggiungeva anche un pochettino, un goccio di Campari. Bene. Ecco, comunque si continua a chiamarlo, io a Stoccarda. Sì. E si continua ancora adesso a bere questo vino con acqua frizzante, che si chiama quindi Schorle. Ecco, grazie François, grazie della sua testimonianza, ma sentiamo ancora Sandro da Venezia, buongiorno. Buongiorno signor Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questa trasmissione che ci tira su un po' lo spirito, restando in argomento. Volevo comunicare che quest'estate in Grecia ero all'isola di Kos, ho conosciuto un pescatore che aveva una trattoria dove cucinava il suo pescato, e ho visto che prima di cena usavano il vino Rezzina aggiunto di soda. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Sì. Aggiunto di soda con due cubetti di ghiaccio, e loro quella bevanda la chiamavano Spritz. Bene! Rezzina è un vino bianco aromatico greco. E devo dire che è stato un sapore esaltante che ho sentito, e quando sono tornato in Italia mi sono dedicato allo spritz senza correttivi. Bene, vino bianco con minerale frizzante oppure soda. Grazie Sandro, perché a questo punto abbiamo sentito Grecia, abbiamo sentito Germania e Francia, abbiamo sentito il Belgio e non abbiamo sentito Barcellona purtroppo, ma anche Barcellona, quindi sta diventando internazionale. questo momento. Bene, io a questo punto devo rispondere a un radioascoltatore che dice che il locale cult di Treviso è il Bottegone ai Nanetti. Sì, certo, abbiamo sentito un locale, ma potrei aggiungere anche altri, l'osteria Alto Cai, l'osteria Danea, quindi sicuramente ce ne sono tanti, ne abbiamo preso uno per ogni città importante. E sentiamo ora, perché abbiamo detto fenomeno di costume, sentiamo anche qualcosa di culturale, perché Marianna Bonelli è presidente dell'associazione Sprit Letterario. Buongiorno Marianna, ho un minuto per lei, non di più. Certo, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, cos'è lo Sprit Letterario? Intanto si svolge a Vicenza e diciamo così, può capitare di entrare in un bar e vedere un gruppo di persone che discutono animatamente e la gente pensa che stiamo parlando di calcio come si fa abitualmente nei bar, mentre invece quando si avvicinano sentono che stiamo parlando di letteratura. Allora, siamo un gruppo, un'associazione culturale nata nell'ottobre dell'anno scorso che si occupa di scrittura creativa e di letteratura in genere. Abbiamo scelto il nome Spritz perché era molto più frizzante, visto che noi lo beviamo prosecco, seltz e Campari con fetta d'arancia. E perché di caffè letterari ce n'erano già abbastanza e perché il nome caffè ha un suono seduto e tronco, diciamo, e per cui ci sembrava proprio un nome giovane. Giovane senza discriminazione di età, visto che ci sono alcuni soci nostri che hanno anche 84 anni. Bene, quindi io la ringrazio di questa, anche di questa ulteriore testimonianza. Purtroppo devo chiudere perché siamo arrivati così alla fine. Ringrazio Campanelli, volevo farlo reintervenire, ma purtroppo ormai è scaduto il tempo. E quindi ringrazio tutti i partecipanti, i moltissimi radioascoltatori che hanno mandato sms. Ne avrei altri 50 da leggere, ma non c'è ovviamente il tempo. Il vostro Gastronauta oggi vi saluta, vi dà appuntamento ogni giorno con la pillola alle 18:30. E adesso continua il riposo del guerriero.